Per una inclinazione naturale tendiamo alla perfezione. Questa inclinazione è giusta poiché ci permette di migliorare in tutti i settori. Se noi ci accontentassimo di quello che abbiamo, di quello che conosciamo, non ci sarebbe progresso e neppure maggiore conoscenza. Però questo desiderio di perfezione nasconde un pericolo che ci impedisce di accettare la nostra umanità e convivere con tutto ciò che ci circonda. Ad aggravare questa situazione a volte vengono in aiuto anche l'opinione che abbiamo di Dio e l'interpretazione della sua volontà. Non che la volontà di Dio sia imperfetta e che i suoi comandamenti siano inadeguati, ma poiché le nostre idee e preconcetti in merito sono puramente umani, arriviamo a trarre delle conclusioni non adatte per il nostro bene. Prendiamo un esempio da ciò che disse Gesù nel Sermone sul Monte: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché, se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che è nei cieli. Matteo 5:4-3:4-8. Gesù ordina a quelli che hanno posto fede in Lui di avere un comportamento diverso da tutti gli altri. Mentre per un'inclinazione naturale noi siamo portati a fare del bene a chi ci fa del bene, un figlio di Dio deve fare del bene a tutti, e questo perché Dio fa del bene sia a chi pone fede in Lui sia all'incredulo. Questo comportamento, secondo Gesù, è la perfezione della condotta cristiana. Alcuni hanno interpretato l'ordine di Gesù che i suoi figli debbano arrivare a non sbagliare mai. E per questo tendono ogni istante con grandi sensi di colpa alla perfezione. Ma l'ordine di Gesù non è tanto quello di avere una condotta perfetta, quanto di essere completi o compiuti nel modo di agire. Essere perfetti come è perfetto il Padre Celeste non significa non sbagliare mai, ma avere un atteggiamento di amore senza pregiudizi verso tutti. Un tale atteggiamento è perfetto, cioè completo. Occorre definire il termine perfezione se si vuole dare il giusto valore alla parola imperfezione. Il vocabolo perfezione deriva da una parola greca che significa compiuto, portare a compimento una cosa o chiusura, come quella di un lavoro. E in questo senso che dobbiamo intendere le varie espressioni che troviamo nelle scritture, quando leggiamo nella lettera agli Ebrei 10 e 14 che Cristo con un'unica offerta ha reso perfetti coloro che sono santificati, significa che Cristo ha reso i credenti capaci anche di portare a compimento ogni opera buona. Quando leggiamo nella lettera ai Colossesi 4 e 12 che Epafra combatteva sempre per loro nelle preghiere affinché fossero fermi, perfetti e ripieni in tutta la volontà di Dio, dobbiamo intendere che Epafra non pregava perché i Colossesi raggiungessero la perfezione, ma perché fossero completi nel loro modo di agire. Così, pure quando leggiamo che Gesù pregò per tutti i figli di Dio affinché fossero perfetti nell'unità, Giovanni 17:23, non dobbiamo intendere che Gesù pregasse perché la comunione fraterna fosse esenti dal peccato, ma perché i figli di Dio fossero in grado di avere una comunione completa, compiuta. Se non diamo questo significato alla parola perfetti, abbiamo grosse difficoltà a comprendere il senso delle cose di Dio. Scrivendo ai Filippesi, l'Apostolo Paolo disse: fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti? Abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Filippesi 3 e 13. Paolo e i credenti di Filippi sapevano molto bene che nessun essere umano è perfetto. Perciò Paolo rivolgendosi a coloro che erano perfetti, si rivolgeva a coloro che erano arrivati nella loro esperienza cristiana ad avere una visione completa della volontà di Dio. Parlava a coloro che erano arrivati a chiudere il cerchio dei grandi interrogativi della vita. Questo non significa che i credenti perfetti abbiano una risposta a tutti gli interrogativi, ma rimettendo nelle mani di Dio tutto il passato, fissano lo sguardo alle cose future. Dunque, la perfezione nello stretto significato del termine non esiste, e sia l'uomo che tutto il creato vivono in una situazione di imperfezione, una imperfezione che trasuda da tutti i pori e che influenza l'esistenza di ogni essere umano. E, in questo stato di imperfezione, che si compie la volontà di Dio. Questo non tutti lo hanno capito. Tendendo alla perfezione, a ciò che non ha difetto, spesso i credenti non vedono l'opera di Dio ma solo ciò che è negativo. Purtroppo questa visione della vita cristiana avvelena chi ha una vista corta e impedisce che Dio sia glorificato. E, assodato che sia impossibile per Dio operare tramite la perfezione, perché in questa creazione non vi è nulla di perfetto, e perciò la sua volontà non può compiersi se non tramite l'imperfezione. Per non dilungarci in troppi esempi, prendiamo in esame come si è compiuta la volontà di Dio nella formazione del popolo di Israele. Prima della nascita di Esaù e di Giacobbe, Dio aveva scelto Giacobbe come erede delle sue promesse fatte ad Abramo e Isacco. Prepatat resultare io. Giacobbe ottiene ciò che era già nel disegno di Dio per mezzo di un inganno, e a 40 anni è costretto a fuggire dall'ira di Esaù in Madian. A Madian Giacobbe sposa due donne anche se non era nel suo progetto. In seguito ha dei figli da due concubine dategli dalle mogli che rivaleggiavano, invidiose per attirarlo procurandogli discendenza. Dei 12 figli generati da Giacobbe, Giuda ha due figli da sua nuora, uno dei quali diventerà discendente di Cristo. Giuseppe, il figlio che Giacobbe ha con l'amata Rachele, viene venduto dai fratelli ad una carovana di Amalechiti. E per tutta una serie di circostanze egli diventa viceré e sposa la figlia di un sacerdote pagano dalla quale ha due figli che diventeranno due delle 12 tribù di Israele. Inoltre, basti pensare che Abramo ha sposato la sua sorellastra, Mosè è nato dal matrimonio di un uomo con sua zia, e che nella genealogia di Gesù troviamo Rahab, una prostituta, e Ruth, una donna di Moab, popolo maledetto da Dio. Nulla di perfetto, dunque, ma i piani di Dio si sono realizzati mediante l'odio, l'invidia, gli inganni, mediante matrimoni illeciti, fornicazioni, malizia. L'imperfezione dell'uomo non ha impedito Dio a raggiungere i suoi obiettivi. Anzi, a dire il vero, è stata proprio l'inadeguatezza dell'uomo a far sì che si compisse la volontà di Dio. Questo dimostra che il Dio della Scrittura non è condizionato dalla imperfezione dell'uomo, ma nella sua sovranità egli trae dal male il bene. Trasforma l'ingiustizia a favore degli uomini, Genesi 52:0, usa il peccato e i limiti degli esseri umani, perché la sua volontà si compia, cioè sia perfetta. Anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode, e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira, Salmo 76:10. La presa di coscienza del fatto che i piani e i progetti di Dio non vengono impediti dalle imperfezioni dell'uomo dovrebbe indurre il credente a valutare gli eventi della vita in un altro modo. Innanzitutto non dovrebbe pretendere che le cose giuste siano fatte solo da chi è pieno di virtù. Con questo non si vuole intendere che qualsiasi persona sia in grado di svolgere qualsiasi lavoro. Ma dobbiamo accettare che il regno di Dio sia portato avanti da persone che possono anche non avere tutti i requisiti richiesti. È sufficiente che guardi la mia vita e ciò che mi circonda. Da anni ho il privilegio di parlare per radio, ma chi registra le trasmissioni non sono credenti che frequentano regolarmente una chiesa, sono due giovani che convivono, perciò si potrebbe subito bollare il tutto al negativo, si sarebbe tentati di lasciarli da parte. Eppure, essi svolgono il lavoro con tanta dedicazione, lo fanno per Cristo che è morto in croce, per loro è una gioia che l'Evangelo venga predicato. La loro serietà e impegno fa invidia a tanti credenti che sono in regola, a credenti che sono fedeli in tante cose. Se noi dobbiamo cercare la perfezione nelle persone per servire Dio, allora io sarei il primo a non svolgere nessuna attività per il regno di Dio. Poiché tutti abbiamo dei punti deboli, poiché non vi è nessuno esente da debolezze, dobbiamo accettare la nostra relatività e lasciare a Dio il compito di rendere perfetto, cioè completo, ciò che noi lasciamo incompleto. Non possiamo rifiutare di leggere un buon libro solo perché per noi vi è un concetto sbagliato. Non possiamo rifiutare di ascoltare un predicatore solo perché conosciamo di lui una debolezza. Non possiamo rifiutare un'opera di Dio solo perché è condotta mediante alcuni metodi non ortodossi. Se agissimo così anche negli altri settori della vita, non dovremmo comprare il pane dal panettiere che ha una amante, o non dovremmo ascoltare un cantante perché ha frodato il fisco. L'imperfezione non è una caduta, ma è la vita stessa. I figli di Dio non possono essere altro che imperfetti, ma hanno un grande Dio potente, capace di supplire l'imperfezione. Quando parliamo, siamo imperfetti. Quando scriviamo, siamo imperfetti. Quando amiamo, siamo imperfetti. Quando parliamo di Gesù, siamo imperfetti. Ma nonostante tutto, la grazia di Dio riesce a raggiungere i cuori che lo amano. Agostino ricorda, nelle sue Confessioni, un episodio che può costituire per noi un principio. Sua madre era caduta segretamente nel vizio del bere e ne fu liberata quando la domestica, che era la sola a conoscere questa sua debolezza, in un momento di rabbia le diede il nome ingiurioso di ubriacona. Di questo episodio scrisse: «Mia madre fu come schiaffeggiata. Vide chiaramente l'esecrabile indegnità del suo comportamento e subito se ne liberò. Come talora, gli amici pervertono con le adulazioni, così spesso i nemici offendendo correggono. Mirabili parole. Mirabile verità. Accettare l'imperfezione propria e quella degli altri è il primo passo per arrivare ad essere perfetti, cioè completi e in nulla mancanti. Giacomo 1:4. Luglio 2005. Ellero.